Fizzle from La Fossa. Here, exclusive MySpace, LCC Familia. I'm not, no. Tu quieres tu porque I'm not, no. Tu quieres tu porque a me no, no, no mi accontentano mai, mai. Tu ti fai la car, tutto golden car. Noi facciamo guai nello stesso bar. Quale nomina, chi ci nomina, chi ci capirà, riempirà ogni QG col bling bling. Tu fai il viaggio col jet, qui si viaggia col trip. Prendi l'aereo, volo di classe, donne di lusso, mamme con tanti. A casa la moglie, in villa l'amante, a lei il portafoglio, all'altra il diamante, vedi. Io malapena mi reggo in piedi, sia per i vizi che i problemi. A me non mi frutta neanche il panetto preso con i soldi mai stati spesi. Quale easy, qui si sforzano anche i sorrisi. E c'è chi vive con i verdoni, 4 stagioni e 12 mesi. I'm crazy, è la vita che mi porta a prendermi quello che c'è. Io mi chiedo perché proprio non a me. Io rischio il gabbio e tu Grand Hotel. Io non sono una star, tanto meno un VIP. Non giro col pass alle feste chic, sensibile al touch come touchscreen. I'm touch, you touch, touch me bitch. A me non mi capita spesso, e spesso non mi capita mai. Tu fai il pin coi soldi che c'hai, mentre io ti pimpo lo style. A me no, perché chi fa i soldi sei tu. A me no, no, non mi vedi alla TV. A me no, no, a te sì però. A me no, no, no, no. A me no, perché chi fa i soldi sei tu. A me no, no, non mi vedi alla TV. A me no, no, a te sì.